dice, baby. Come dice, loco. Quando stendo le vocals, come l'estend del coco. E la tocca un gran tocco. Cerco beef o filet mignon. Questo beat è una benedizione. La mia bici quadra mi scopo in Padua. Le beve dom, le vuole un don. La la la, sì sì. Tutto MCM, tutto NSC. Tutto MC Hammer, sono tu legit. Non ho Pepsi Man, sono sempre qui. Lei mi sente come una baseline. Face to face, no FaceTime. Quando sono sulla traccia, non mi fido più la faccia. Classe azul, classe G. Volo in classe beats. Saranno benedetti tutti quanti i miei G's. Prendo un'altra bag, non ci stanno nei G's. Mi sembra chiaro che la mia classe è G. La mia classe è G. La mia classe è G. Leva matta per la techno. Mi massaggia quando recco. È la sensazione del ghetto. Io non faccio uso di perco. Batto cassa, sotto cassa. Il suo booty non ci passa. Motherfucker, Italian hustler. Mi intercettano WhatsApp. Siamo attivi, stiamo all night. In Italia siamo all right. All star, RM, polsi così. Siamo sempre on time. Siamo attivi, stiamo all night. In Italia siamo all right. All star, RM, polsi così. Siamo sempre on time. Classe azul, classe G. Volo in classe B. Saranno benedetti tutti quanti i miei G's. Prendo un'altra bag, non ci stanno nei G's. Mi sembra chiaro che la mia classe è G. La mia classe è G. La mia classe è G.